8강 어휘 anno borsa classe differenza favore fiore giorno lezione lingua parlata lingua scritta mare momento natura neve persona pioggia sette tre zaino umidità quando quanto lungo prossimo scorso dopo solo 문형 c'è un libro nella borsa? Sì, c'è. Buongiorno, sono Cho. C'è Xiu? Sì, c'è. Un momento, per favore. Grazie. Ci sono delle ragazze nella classe? No, non ci sono ragazze. Ci sono solo ragazzi. Quanti giorni ci sono in una settimana? Ci sono 7 giorni. In quale stagione ci sono molti fiori nella natura? In primavera. 대화. Che giorno è oggi? Oggi è martedì. Quanti ne abbiamo oggi? Ne abbiamo 10. In che mese siamo? Siamo in settembre. In che anno siamo? Siamo nell'anno 2009. Quando ha lezione di italiano? Ho lezione il martedì e il venerdì. Quanti giorni ci sono in febbraio? Ci sono 28 giorni. In che mese è nato lei? Io sono nato in luglio. In che mese ci sono tante persone al mare? In agosto. In quale stagione c'è molta umidità in Corea? In estate.